buona serata e buon inizio di settimana. Parte il nostro consueto spazio dalle 20 alle 21, dal lunedì al venerdì con Arden Davis su Rock FM. La voce di Marco Gravelli con voi, il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. Andate a visitare il sito di Mariposa per vedere tutte le prevendite dei biglietti dei vari concerti e tutte le novità in arrivo su CD e DVD, ovvero sia www.mariposadischi.it. Ringraziamo come sempre Simone, il mio personalissimo autore, che anche per quest'oggi, domani e così via, ha preparato la tracklist nonché le note biografiche delle band. Sapete che ormai il nostro spazio di Arden Davis, lo dico per coloro che magari da poco conoscono questo programma, è incentrato sì sulle novità ma anche sulle proposte che arrivano dal passato, anni 80, anni 90, del mondo hard rock, glam rock, heavy metal, thrash, speed e chi più ne ha più ne metta. E questa sera partiamo con un gruppo americano creato dal chitarrista Chris Gates nel 1988. Si chiamano Junkyard e grazie ad un contratto con la famosa Geffen Records che arrivano all'esordio nel 1989. Segue un doppio cambio di line-up e quindi pubblicano nel 91 il secondo Sixes, Sevens and Nines, questo è il titolo dell'album, che non ottenne però il successo sperato, pertanto persero il contratto, nonostante avessero già cominciato a preparare il nuovo lavoro. Così sempre nel 91 la band si sciolse. Pochi anni dopo il chitarrista Baker entrò nei Bad Religion, che non c'entrano nulla con il sound che aveva proposto con il Junkyard. Ad ogni modo la band si riforma nel 2000 con la formazione parzialmente cambiata rispetto agli esordi. Suonano alcune date dal vivo che vengono registrate e pubblicate in un album live. Arriviamo così al 2003 quando esce un nuovo EP di 6 tracce dal titolo Tyrant and True. Da poco è uscito un nuovo lavoro dal titolo Put It On 10 and Pull the Knobs Off, che contiene 19 canzoni registrate addirittura nel 1987, quindi veramente ancora prima del loro esordio. Bene, li andiamo ad ascoltare dal secondo album, 67 and Nines, il pezzo si intitola All the Time in the World, si chiamano Junkyard. We'll be right back. All the Time in the World si potevano inserire nel filone dello street, diciamo così, street sleazy rock, questi Junkyard. E beh, del resto la Geffen Records, dopo aver scovato i Guns N' Roses, ci ha provato con tantissime band, Little Caesar, questi Junkyard, li metteva sotto contratto tutti, dicendo, beh, prima o poi un'altra band come i Guns N' Roses magari la trovo. Forse non è stato così, però ha trovato i Nirvana e quindi hanno continuato alla grande con un altro settore, un altro genere di musica. Dopo i Junkyard con All the Time in the World, andiamo in Inghilterra, questa volta con gli Elixir, heavy metal band inglese con 3 album in studio ed un live. Tuttora sono in attività e sono vissuti durante il periodo della New Wave of British Heavy Metal, ma la loro sfortuna è che hanno esordito quando ormai quella corrente si stava spegnendo. Da segnalare che nel loro secondo album ha suonato il batterista Cliff Barr, ex Iron Maiden, gruppo che nasce nel 1983 in quel di Londra. In principio avevano la voce, pensate, una ragazza, ma dopo soli 2 concerti lascia il gruppo e il posto fu preso da Paul Taylor, che canterà in tutti i loro album. Dopo un demo nel 1984 arrivano all'esordio con l'album Son of Odin del 1986. Segue quindi il cambio della sezione ritmica e il secondo album Lethal Position del 1990. Sempre in quell'anno la band si scioglie. A sorpresa nel 2001 si riformano con la lineup originale e tornano sul mercato nel 2003 con un album dal titolo The Idol. Il loro ultimo album in studio, Mind Creeper, è uscito 2 anni fa e sempre in quell'anno è stato pubblicato anche il loro primo e unico live album. Noi li ascoltiamo dall'esordio, il primissimo album, che in origine era uscito nel 1986 in vinile, ristampato in CD nel 2001 e anche nel 2006. Io lo faccio ascoltare dal mio vinile, proprio la prima tiratura. Magari vale anche qualcosa questo album. Son of Odin, il pezzo si intitola Pandora's Box e loro sono gli Elixir. We'll be right back. Incisione non certo il massimo, ma come vi dicevo arriva dalla prima tiratura del vinile originale 1986. Erano gli inglesi Elixir con l'album d'esordio Son of Odin ed era Pandora's Box. Ritorniamo invece a qualcosa di più recente, stiamo parlando dei Down. Arriveranno a Milano il 22 di aprile per uno show da headliner, per il quale è stato anticipato che non ci sarà alcuna band di supporto. In effetti lo spettacolo, il concerto, durerà ben 2 ore e sarà proiettato anche un film sulla storia della band. Alla fine dello scorso anno è uscito il loro terzo album, Free Over the Under, su etichetta Roadrunner Record, che ha raggiunto la 26esima posizione delle classifiche americane. Quello che vi presento questa sera è il nuovissimo singolo dal titolo On March the Saints, sono i Down. Wrecking ball, plowing through. Anselmo naturalmente alla voce, questo super gruppo chiamato Down, prodotto da Warren Ricker e dagli stessi Down, mixato da Warren Dicker, con il loro nuovo lavoro con il contratto con la Roadrunner Records. Down, che abbiamo detto 22 di aprile saranno dal vivo all'Alcatraz di Milano. Ritorniamo al passato, andiamo e cambiamo genere, sonorità decisamente più AOR, con gli Aviary, una band americana. Hanno proposto un ottimo pomp rock, hanno inciso due album per la Epic Sony Music. Frontman e leader del gruppo era Brad Love, che in seguito intraprenderà anche una carriera da solista. Ad ogni modo, l'album d'esordio degli Aviary è uscito nel 1979 ed è quello che andremo a prendere in considerazione. Se vi interessa, è stato ristampato in CD nel 2001 ed è considerato proprio un classico di questo genere. Il loro secondo lavoro, pur essendo uscito nel 2003, contiene le tracce registrate tra il 77 e il 1979. Il pezzo che vi propongo è quello che chiudeva la side 1 del vinile, visto che dal vinile lo andiamo a prendere in esame. Aviary, il nome della band, As Close As You Can Get, il titolo del brano, sono gli Aviary. You're quasi alla Queen, ma ve l'ho detto, questo è un ottimo lavoro per gli amanti del genere AOR. Cercate di recuperarlo, perlomeno la ristampa in CD uscito nel 2001, Aviary, il nome della band dal loro primo album era As Close As You Can Get. Andiamo invece ad un altro genere con gli Agent Steel, storica band di speed metal americani creati nel 1980 dal cantante John Kreis, dopo essere fuoriuscito dagli Abattoir che vi ho proposto settimana scorsa, e dal batterista Chuck Profus. All'inizio si chiamavano Sanctuary, presto cambiato in Agent Steel. Registrano un demo nel 1984, segue poi il cambio di entrambi i chitarristi e arrivano all'85 all'album d'esordio dal titolo Skeptics Apocalypse, che prenderemo in esame questa sera. Subito dopo c'è da segnalare l'ingresso del chitarrista Versailles, oggi noto anche per la sua militanza negli ottimi Redemption. Dopo un EP arriva il secondo album, Mad Locust Rising, che gli valse anche un tour insieme agli Anthrax e gli Overkill. Dopo il terzo lavoro, nonostante il buon successo, la band si scioglie e siamo nel 1988. Dopo 11 anni gli Agent Steel si riuniscono con alla voce Bruce Hall, con il quale hanno inciso il quarto album, Omega Conspiracy. Segue un altro lavoro nel 2003 e l'ultimo, uscito lo scorso anno dal titolo Alien Igma. Andiamo a proporli, come vi dicevo, dal primo album, Agent Steel, il loro nome, la canzone Agents of Steel. L'album si intitolava Skeptics Apocalypse, la formazione è quella degli Agent Steel. Screaming with pride, drifting through night air. Seconda parte di Hard and Heavy nell'appuntamento del lunedì, replicato poi il mercoledì. Le benvenuto su Rock FM, la voce di Marco Garavelli, ma il grande sound AOR dei Work of Art, uscito lo scorso weekend l'omonimo album per questa band svedese composta da tre elementi. Propongono veramente un ottimo AOR, ve l'avevamo già presentato in anteprima qualche giorno prima dell'uscita con altre tracce di questo loro album che si intitola proprio come il loro nome, Work of Art. Oggi vi ho proposto Hair Only Lie. Ricordo che quest'album è distribuito in Italia dalla è stampato dalla Frontiers Record italiana, che ha pubblicato veramente questo ottimo lavoro AOR. Andiamo in Francia con la prossima band, si chiamano Clone con la K. Uscito due settimane fa questo loro secondo album, che si intitola All Seen in High. Per questa band metal francese piuttosto particolare, sono sei elementi, utilizzano a volte, la loro musica è definita come metal, heavy rock, stoner, grunge, pop e psichedelica. Insomma, tutti questi generi musicali vengono miscelati nel loro sound, a volte utilizzano strumenti strani come strani, abbinate a questo genere di musica, si va dall'armonica al sassofono, al flauto cinese ed altre cose più elettroniche. Clone è il loro nome, abbiamo detto. Sono nati nel 1999, anche se tre membri della band suonavano già insieme da 4 anni. Alle spalle hanno un album uscito nel 2004, un EP stampato sempre alla fine del 2004. Questo secondo lavoro presenta 12 tracce ed è stampato da questa etichetta che si chiama Season of Mist. Andiamo a proporre le note del motivo intitolato Promises dal secondo album dei francesi Clone. Show. Come anticipato, varie sonorità sono presenti nel sound di questa band francese chiamata Clone. Dall'album All Seen High erano le note di Promises. E andiamo invece ad un personaggio direi abbastanza amato dal pubblico metal italiano, lo conoscete bene, si chiama André Matos e lo ospiterò proprio giovedì con il suo chitarrista. Sarà qua, vedremo se riusciremo a fargli registrare qualcosa in acustico dal vivo, e poi settimana prossima proporremo l'intervista per parlare di questo suo album da solista che esce questa settimana. Si intitola Time to be Free, a nome di André Matos. Dell'album, come già detto, parleremo la prossima settimana con lui. Per quanto riguarda la sua carriera, sapete, comincia negli anni 80 quando in Brasile forma i Viper, con i quali ha inciso due album in studio. Poi forma gli Angra insieme al chitarrista Chico Loriero e ha inciso con loro tre album, due dei quali sono considerati dei capolavori di un certo tipo di power metal. In seguito alla sua fuoriuscita dagli Angra ha dapprima creato un progetto solista a nome Virgo, col quale ha pubblicato un album che però non ha avuto successo, e poi ha formato insieme ad altri due ex componenti degli Angra gli Shaman, con i quali ha inciso due album. Il primo è stato acclamato da critica e pubblico. Oltre ad essere un ottimo cantante, è anche un bravo tastierista, è diplomato al conservatorio, addirittura come conduttore d'orchestra. Nel suo curriculum, l'abbiamo segnalato alcune volte, c'era appunto da notare il fatto che ha partecipato ai provini per sostituire Bruce Dickinson durante un certo periodo quando era fuoriuscito dagli Iron Maiden, ed è arrivato alle fasi finali di queste diciamo così eliminatorie, di questi provini. Questo suo album si intitola Time to be Free e andiamo a proporre, dopo la traccia d'apertura contraddistinta anche da un intro di orchestra, il pezzo si intitola Letting Go, traccia numero 2 dell'album, André Matos con Time to be Free album. Sometimes the universe fancies like my world. Questa settimana sarà nei negozi due grandi produttori, grande band, album che è già entrato al numero 2 nelle classifiche di vendita giapponesi, dove è già uscito, quindi un grosso prodotto. Ma come vi dicevo, giovedì avremo qui proprio André nei nostri studi, parleremo con lui, ci presenterà tutto l'album, che è intervista che proporremo la prossima settimana. Questo è un estratto da Time to be Free, il suo primo lavoro da solista, perlomeno col nome di André Matos. Il pezzo era intitolato Letting Go. Pronti alle news super metalliche anche per questa sera. Partiamo con i Pain, tre membri della band svedese che questa domenica suoneranno a Milano di spalla ai Nightwish. Hanno subito un'aggressione in quel di Lipsia in Germania, nazione nella quale si trovavano qualche giorno fa per un tour. Infatti sia il leader Peter che il bassista e il batterista sono stati picchiati in modo violento alle spalle da alcuni giovani. I tre musicisti, una volta accompagnati in ospedale, hanno subito diversi punti di sutura, soprattutto il leader Peter. Parliamo dei Royal Ant, resi noti i dettagli dell'atteso nuovo album della band danese, che ricordiamo sarà il seguito del loro capolavoro Paradox ed il primo con il bravo Mark Bowles alla voce. L'album uscirà nei negozi il 14 marzo, si comporrà di 10 tracce, saranno presenti diversi special guest come Dougie White, che attualmente canta nel gruppo di Malmsteen, Ian Perry degli Elegy, Eric Brockman degli Evil Masquerade, ma soprattutto ex Royal Ant. Gods of Metal, un'altra band di prestigio, si è aggiunta al bill del festival italiano. Si tratta degli americani Iced Earth, che suoneranno domenica 29 giugno. Italian Gods of Metal, che si terrà domenica 2 marzo qua a Milano. Nuovo cambio, pensate che gli Eldritch, che erano stati chiamati a sostituire i Labyrinth, hanno disdetto a loro volta l'impegno perché si sono dichiarati non soddisfatti della posizione nella scaletta. Stessa cosa avevano avuto, stesso problema per i Labyrinth, pertanto il loro posto è stato preso dai Node. Testament ha resi noti i dettagli del nuovo album della thrash metal band americana, si intitola The Formation of Damnation, ci saranno 11 brani, l'uscita prevista per il 29 di aprile. E chiudiamo con i Power Quest, la band metal anglo-italiana pubblicherà un nuovo album il 25 di aprile dal titolo Master of Illusion. A proposito di gruppi italiani, andiamo a prendere in esame questa band che arriva dalla Toscana, si chiamano Motus Tenebre, è il secondo album che si intitola Soul Expression per questa valida gothic metal band italiana composta da quattro elementi. Nati nel 2002, creati dal cantante Luis e dall'ex chitarrista, dopo la realizzazione di un mini CD arrivano all'esordio con l'album Wayside, uscito 3 anni fa. Nel 2006 partecipano alla compilation Heavy Rendezvous volume 2 e finalmente è uscito questo secondo album dal titolo Soul Expression, dalle sonorità che ricordano un po' il Paradise Lost. Ci sono 11 brani masterizzati in Svezia presso i Master Sound Studios e oggi ve li propongo con le note di questo motivo dal titolo Take Me Low. Si chiamano Motus Tenebre. We'll be right back. intitola Take Me Low, questo pezzo, il gruppo italianissimo dalla Toscana in Motus Tenebre, pubblicato su etichetta anch'essa italiana, cioè la Masterpiece. Abbiamo riproposto questa Take Me Low dal loro secondo album, dal titolo Soul Expression. E per chiudere il nostro primo appuntamento di quest'oggi rimaniamo ancora su queste sonorità, ma questa volta abbandoniamo l'Italia, andiamo addirittura in quelle di Mosca, dalla Russia. Forse è una delle prime volte, ho proposto qualcosa di ungherese, polacco, ma russi forse mai, che la memoria non mi tradisce naturalmente. Dark Princess, questo è il nome della band gothic metal che provengono appunto da Mosca, composta da 6 elementi, cantato femminile ad opera della rossa, almeno di capelli, Olga Romanova. Il gruppo ha pubblicato nel 2005 l'album d'esordio Without You e hanno effettuato un concerto di spalla proprio in quel di Mosca ai Paradise Lost. Ora l'etichetta Audio Globe distribuisce tramite la SPV tedesca sia il primo che il secondo album in un'unica confezione, cioè il primo album Without You viene inserito come bonus CD e poi vi è questo nuovo lavoro dal titolo Stop My Heart, che è uscito nel 2006 perlomeno in Russia, ma per la prima volta vengono raccolti e pubblicati insieme. E andiamo ad ascoltare proprio il brano che dà il titolo al lavoro, Stop My Heart, con il quale chiudiamo l'appuntamento di questa sera, il primo o terzo, se seguite naturalmente la nostra replica il mercoledì. Ricordo che se perdete una puntata di Hard and Heavy le potete ritrovare e riascoltare in streaming tramite il nostro sito www.radiorockfm.com, in archivio programmi scegliete la data di Hard and Heavy e ve la ascoltate. Quindi vi ringrazio come sempre, Marco Gravelli si congeda da voi, vi rimando all'appuntamento di domani sera ringraziando il nostro autore Simone e il nostro sponsor Mariposa Dischi. A domani, ciao.